certo che frugavi dentro i miei pensieri per rubarmi un'emozione che si è persa dietro il tempo, come un'ancora lanciata in un attimo sbagliato, in un posto qualunque e non senza rinuncia. Ti ho sorpreso che frugavi la mia anima scoperta per leggere una poesia che in mezzo a melodia e che non riesco mai a finire per paura di scoprire che piango e non lo voglio far vedere. Mi lasci nuda tu di fronte al mondo, resti solo a un passo senza prendermi, mi sfiori appena il cuore da lontano, con le tue parole semplici che mi ha scaldato come un vero amico. Ti ho sorpreso che frugavi nel cassetto dei miei sogni tra la polvere di tutte le ferite della vita, hai seguito quella strada per la mia anima smarrita, seguendo quella luce nella notte. Tu non cercar più nulla nel mio essere incostante, nelle tue mani ora c'è la chiave del mio cuore. Se vorrai entrare tu non dovrai bussare, basterà aspettare che arrivino le parole. Ti prego non frugare i miei pensieri, sei il primo che ha passato questo limite dove non era entrato mai nessuno. Tienimi la mano da lontano come un vero amico. Leggendo tra le righe tu ci potrai sentire l'amore così rosso per mia figlia e ogni passo tra il valore delle cose che mi rendevano felice. La leggerezza vola via col tempo.